Siamo qui con Giacomo Golfieri, amministratore delegato di Phonoprint, che partecipa come parte attiva alla realizzazione di questo nuovo festival, del Festival Bologna Musica d'Autore, il BMA, che è nato come contest ma quest'anno si sta proprio trasformando con serate e concerti. Intanto le chiedo in cosa consiste questo festival e qual è lo scopo. Questo festival è un contenitore che è iniziato a giugno con una serata alle Sere di Giardino Margherita. È un contenitore per far emergere la nuova musica italiana, la nuova musica d'autore italiana, attraverso un percorso che appunto è partito a giugno e arriverà il 18 di ottobre al Teatro Duse. 8 finalisti verranno giudicati da una giuria che stabilirà qual è il progetto più interessante e che insomma speriamo sia l'inizio della carriera di qualcuno di questi 8 giovani. Ecco, un'occasione per questi giovani anche di farsi sentire da addetti musicali professionisti, no? La giuria è presieduta per il secondo anno consecutivo da Mogol e quest'anno abbiamo una giuria che è stata pensata in maniera molto attenta, nel senso che sono stati coinvolti addetti ai lavori della musica di oggi, quindi abbiamo Alessandro Ceccarelli, storico manager della BPM Concerti, Parix Hilton che è un produttore tra gli altri di Sfere Basta, abbiamo Sergio Cerruti che è presidente AFI, associazione discografica, e abbiamo Matteo Romagnoli che è il Garincia Dischi, stato sociale ex Otago. Ricordiamo che ci sarà la serata finale il 18 ottobre proprio qui al Teatro Duse con una giuria d'eccezione, personaggi del calibro di Mogol che presiederà la giuria. E quali sono i premi per questi giovani? Allora, il premio diciamo assoluto, quello Phonoprint, sono 10 giornate di studi, di registrazione, mix e mastering nei nostri studi con i nostri fonici. Poi abbiamo la borsa di studio al miglior testo, borsa di studio del CET di Mogol, e poi abbiamo un premio nuovo che è il premio alla miglior performance live, che consisterà nella registrazione e pubblicazione sul nostro canale web di una live session presso i nostri studi. AFI ha contribuito a questi premi attraverso un proprio intervento.